In caso di necessità, questa volta bisognerà fare cose diverse da sempre. Per fare un esempio, se c'è una partita che ha un arbitro che può raggiungere quello stadio a poca distanza, non dovremo neanche più pensare che un arbitro di Napoli non può arbitrare a Napoli, un arbitro di Firenze a Firenze, uno di Torino a Torino, uno di Roma a Roma. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Non rassegniamoci al fatto che tutti ci vogliono convincere a dire tutto non sarà più come prima. Proviamo a fare in modo che tutto torni come prima. Proviamo a fare in modo che lo sport riacquisti quella dignità e che ci dia delle gioie, delle rivalità. In questo momento ne abbiamo tanto bisogno. Sembra veramente assurdo il discorso che facciate, che fanno solo qua in Italia sul calcio, con tutto quello che sta capitando, succedendo nel mondo, dove normalmente qualunque attività, eventi sono spostati di mesi. È inutile, dobbiamo ammetterlo, i tedeschi razza superiore. Occorre che si trovi una soluzione di compromesso in cui tutti danno qualcosa e il carico venga distribuito. E io mi riferisco ai calciatori, alle società di calcio, alle leghe e alle aziende che gestiscono i diritti televisivi. Ti faccio vedere se è dentro, aspetta, dammi la letto altra, un attimo giallo, è dentro. Fermo sul punto, sul braccio. Sul primo controllo, questo. Ecco, okay. Ok, vai. Manga, vieni a vedertelo, la prende con la mano. Ok. Mano per me. Apri il segno della review perché c'è un fallo di mano del 4. Apri il segno della review. Eccoci qui, 800 24 00 24, numero verde per intervenire, 349-238-6666, sms, whatsapp, anche audio, vi aspettiamo, perché il dibattito è apertissimo, calcio sì, calcio no, dopo la giornata di ieri con le indicazioni dell'UEFA, le mosse della Federcalcio. Ne parliamo dalle 14.30, avremo con noi Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che ha quantificato in 80 milioni di euro i danni per la Serie C. E con lui cercheremo di capire se al termine di questa settimana cruciale il calcio italiano sia più vicino o più lontano rispetto alla ripartenza. Pochi minuti fa lo avete sentito, le parole di Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità: credo sia una decisione difficile quella di riaprire il calcio, per questo sport non ci sono condizioni di rischio zero. Che cosa vuol dire? Dalle 14.30 cercheremo di capirlo. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Ciao Pier. Dunque, tra le poche certezze che abbiamo in questo momento, c'è che quando si tornerà in campo, che sia giugno, che sia l'autunno, troveremo un calcio con qualche aggiustamento a livello di regolamento. Dell'emergenza si sta discutendo in questi giorni, la ripresa sarà eventualmente accompagnata da qualche misura per mettere in sicurezza anche arbitri, direttori di gara e tutto. Però noi oggi proviamo a fare un po' di didattica, ci affidiamo alla persona che più di tutte ci può aiutare a capire cosa cambierà nei prossimi mesi nelle regole del gioco del calcio su indicazione dell'IFAB, che si è riunita a fine febbraio, lo fa una volta all'anno, cambia, riscrive, emenda, studia e ci consegna il regolamento su cui poi per 12 mesi ci misuriamo noi assistendo al calcio. Saluto Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri della FIFA e membro dell'IFAB. Collina, ciao, buon pomeriggio. Ciao Giovanni. Ciao Pierluigi. Ciao Pierluigi, buongiorno a tutti qua. Che bello questa inflazione di Pierluigi oggi in puntata. Sì, siamo una piccola enclave, ma oggi siamo in maggioranza. Mi senti unico isolato. Nome o doppio nome? Io sono unico nome. Anch'io, tu? Perfetto, per cui proprio uguale. Ma pure te ti chiamano Gianluigi, Gianluca? No, Pigi. No. Ah, sì, no, dico, Nickname, ma quelli per gente che sbaglia, no. Gianluigi, no, beh, è un classico. Chiaramente, sì. Poi non... io lavoro molto con l'estero e... provare a spiegare a loro come si scrive questo nome è una cosa. Di solito scrivono Pier con Pier Luigi, ma comunque vabbè, con una serie di G. una serie di C. Sì, vabbè, io la farò semplice. Pier, lo chiamo Pier, come sempre, e Collina lo chiameremo Pierluigi, così evitiamo di fare confusioni. Ripeto, 800 24 00 24, numero verde, voglio i vostri contributi, perché poi dalle 14.30 apriamo il dibattito calcio sì, calcio no, anche alla luce delle ultime parole di Rezza che vi ho citato. Volevo chiedere a Pierluigi Collina, visto che parliamo un po' di che cosa ci attende nel calcio quando riaprirà a livello regolamentare, se la montagna ha partorito il topolino, perché per mesi si è parlato di grandissimi cambiamenti sul fuorigioco, sul fallo di mano, sul VAR, c'è chi si è cimentato a parlare di tolleranze di centimetri, di spegnimenti del VAR ad esempio sul fuorigioco, poi dopo c'è un documento che modifica qualcosa. Però mi sembra nello spirito semplicemente si tratti di limature del regolamento come lo abbiamo conosciuto in questa stagione. Sì, allora fammi fare una premessa. Hai detto che l'IFAB, hai giustamente detto che l'IFAB si riunisce il 29 di febbraio. Allora, abbiamo un problema di collegamento, adesso proviamo a ripristinarlo per riuscire a sentire le parole di Pierluigi Collina. Pier, hai avuto anche tu la sensazione di un dibattito che abbiamo portato avanti anche noi per mesi, che poi in realtà non ha prodotto le modifiche, Pier, no? Che ci attendavamo probabilmente. Io ho la sensazione che quello che ci siamo detti pratica fino ai primi di marzo, quando ancora si parlava di pallone, cioè c'è un eccesso secondo me di discrezionalità, ci sono troppe zone d'ombra nel regolamento, è chiaro che la sensibilità dell'arbitro è fondamentale nel valutare tante situazioni, però la mia sensazione, anche in riferimento all'elemento del VAR, è che alla fine ci sia stato in tanti casi più confusione che altro. La confusione è dovuta a un regolamento scritto non sempre in maniera chiara e troppo incline secondo me appunto all'interpretazione, che può completamente stravolgere un episodio, un po' anche all'ignoranza, lo dico sinceramente, anche nostro, sì, ma anche mia, c'è cioè nessun problema, c'è qualche errore, l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io, l'hanno fatto i giornalisti, soprattutto in tempo reale nella valutazione degli episodi, però onestamente non è semplice, ecco, non è semplice, con tanti cambiamenti regolamentari, tante regole, qualcuna anche un po', diciamo così, illogica rispetto allo spirito del gioco. E quindi adesso proviamo a chiarire. Abbiamo recuperato Pierluigi Collina, eccoci. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che ho ascoltato i commenti di Pier. Allora, facciamo un passo indietro. Stavo dicendo, il l'IFAB si riunisce una volta all'anno, ma non è che per il resto dell'anno compaia. Lavora, valuta, studia, dibatte, per poi arrivare al momento di sintesi, al momento conclusivo con le novità regolamentari. In maniera differente da come era prima, oggi ci sono delle commissioni che lavorano, commissioni formate da persone che di calcio ne sanno, una parte più tecnica con capi, chi ha responsabilità di arbitraggio di tutto il mondo in una confederazione, e poi diciamo esperti, ex calciatori, ex allenatori. In questo panel siede da Figo a Boban, a Mbomà, Nakata, Morace, Maturana, Arsène Wenger, rappresentanti della FIFPro, delle leghe mondiali. Qualcuno che ha qualcosa da dire sul calcio. Diciamo qualcuno che ne sa. Io quando leggo, sento definire l'IFAB come un consesso di parrucconi, mi fa sorridere anche in virtù delle mie caratteristiche tricotiche, che tutto fuorché un parruccone. Comunque gente che è stata sul campo, gente che ha cognizione di causa. Come dicevo, si riuniscono, lavorano, lavoriamo e poi maturiamo una sintesi con dei cambiamenti. Aspettative su cambiamenti di quest'anno. Diciamo che venivamo da una stagione, la 19-20, che era iniziata con molti cambiamenti. La precedente riunione dell'IFAB, quella a inizio 2019, aveva portato un numero abbastanza consistente di cambiamenti. Quest'anno ci siamo più focalizzati, abbiamo focalizzato l'attenzione sul rifinire alcuni di questi cambiamenti sulla base dell'esperienza maturata in una metà di stagione. Faccio un esempio, il cambiamento che era stato portato nel calcio di rinvio con il pallone che può essere già giocato all'interno dell'area di rigore prima che esca è stato sicuramente un qualcosa di positivo, perché ha velocizzato questo tipo di ripresa del gioco. Ha costretto anche tanti allenatori a cambiare la fase di uscita del pallone. Ma lo facevano già prima, lo facevano già prima, perché giocare un rinvio corto era diventata un'abitudine molto, molto diversa dall'abitudine precedente di calciare alto a metà campo. E questo, mi si consenta, riduce anche le possibilità di infortunio alla testa di giocatori che andavano a saltare in maniera molto più frequente a centrocampo. Durante l'estate, subito dopo l'inizio dell'implementazione della nuova regola, ci fu un portiere, un'amichevole estiva, che ebbe l'idea di alzare la palla per un compagno che gliela restituiva di testa, lui la riprendeva in mano e giocava. È chiaro che di fronte a questo tipo di non divieto nelle regole abbiamo dovuto colmare questa, diciamo così, lacuna. Nessuno poteva pensare che qualcuno avrebbe messo in atto una tattica di questo tipo. Abbiamo cambiato. Qui, ecco, diciamo, più adeguamenti rispetto a cambiamenti veri non ci sono stati, se non ad esempio cercare di definire dove inizia un braccio e dove finisce la spalla. Che è uno dei temi caldi di tutto il post-partito. Nessuno l'ha mai fatto. Lasciata l'interpretazione del singolo, abbiamo provato a capire dove finisce la parte del corpo che non è possibile muovere. Perché in definitiva, che cos'è che rende punibile un braccio? È il fatto che uno lo usi per fare il corpo più largo, per rendere la dimensione e la figura del corpo più larga. Ora, c'è una parte in anatomia umana che è il deltoide, che è il muscolo che va all'esterno della spalla, e abbiamo pensato che fino a lì non rileva, perché bene o male è sempre attaccato al corpo. Dalla fine del deltoide in poi, esternamente, fine del deltoide, credo che in quattro sappiano dove che finisce cosa sia il deltoide e dove finisce. Sulla regola abbiamo pensato di usare le parole bottom of the armpit, cioè la fine dell'ascella, che corrisponde internamente alla fine del deltoide. E questo dovrebbe fare chiarezza, no, Pier? Perché noi molto spesso siamo stati lì sul centimetro. Cerchiamo, poi sul centimetro nessuno andrà a obiettare, però abbiamo visto nella scorsa stagione, come nelle precedenti, dei colpi di spalla, ma chiaramente di spalla, che venivano puniti. Ecco. Abbiamo cercato di limitare questa discrezionalità. Poi credo sia cambierà con un'interpretazione un attimino più chiara la questione del tocco in occasione di una rete segnata o di un assist a cui poi scaturisce una rete. Noi italiani anche abbiamo qui, tutti in testa qui, il gol di Ibrahimovic a Firenze, per intenderci. Allora Giovanni, io credo che molto spesso, poi mi piacerebbe sapere da Pier, sentivo che diceva prima, quali sono le regole nuove inserite in maniera illogica. Questa secondo me ha una logica, e che è quella di codificare qualcosa che nella pratica avveniva già prima. Vi spiego meglio. Il fallo di mano, per essere punibile, doveva essere un deliberate act, cioè un atto volontario. Ma nella pratica venivano puniti falli di mano o contatti braccio-pallone assolutamente involontari. Credo che voi ricordiate bene la finale Barcellona-Juventus a Berlino. A Neymar fu annullato un gol con un colpo di testa, un successivo tocco di mano e poi il pallone entra nella rete. Chiaramente era stato involontario quel tocco di mano, il gol fu annullato e la comunità calcistica considerò quell'annullamento di quel gol come una cosa ovvia, una cosa scontata, salvo gli attenti lettori del regolamento che si chiedevano: ma perché è stato annullato se quel fallo di mano era involontario? Allora, in pratica abbiamo codificato che l'involontarietà, per meglio dire, la volontarietà è solamente uno dei criteri per rendere punibile un fallo di mano, insieme ad altri. Per la specifica situazione dell'attaccante, invece, abbiamo ritenuto che, visto che l'obiettivo finale del gioco del calcio è segnare un gol, che questo venga conseguito attraverso un contatto ancorché involontario con una parte del corpo con la quale non si può giocare, come una cosa non fea, non corretta, no? Eticamente. Per cui abbiamo pensato che anziché andare a capire se era stato volontario, se era stato determinante o meno, più semplicemente qualunque tocco della mano viene punito se ha causato la segnatura di una rete, oppure se ha favorito una segnatura della rete, perché se io tocco col braccio, controllo il pallone e segno immediatamente dopo, è uguale. Oppure se ha favorito la segnatura della rete da parte di un compagno in maniera immediata. Cioè io controllo il pallone con un tocco di braccio, il pallone va al mio compagno che immediatamente segna il gol. In tutte queste fattispecie ricorre la parola immediatamente, il concetto di immediatezza. Certo, immediatezza, che è quello che io diventa determinante. Pensavo proprio a questo, pensavo, ma adesso non voglio fare la moviola postuma del campionato, pensavo a Fiorentina-Milan, a quel pallone che sbatte sul braccio di Ibra, poi Ibra va avanti, vince un contrasto e segna. Adesso non voglio che Collina si metta a fare la moviola e magari a giudicare. Non voglio fare la moviola e non voglio neanche ovviamente andare a occuparmi di ambiti che non sono miei. Esattamente. Però se fra un tocco di mano ci sono, cioè un dribbling, o per meglio dire un contrasto, poi c'è un controllo di pallone, un ulteriore dribbling e poi un movimento in avanti e si segna una rete, immediatezza c'è poco. Ecco, è difficile legare questa azione al concetto di immediatezza. Pier, ti devo chiedere 30 secondi, devo chiedere anche a Pierluigi Collina. Pier, abbiamo una brevissima sosta, meno di un minuto, poi torniamo e andiamo avanti. C'è anche un amico che dopo lo chiamiamo, 800 24 00 24, ha una domanda secondo me molto interessante per Collina. Torniamo fra un minuto. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Tra qualche istante sentiamo Davide da Roma, 800 24 00 24. Pier, mi sembra che sul concetto di immediatezza ci siamo a questo punto fatti ragionevolmente un'idea chiarissima, no? Sì, sì, ma no, ma io quello che trovo è che tante volte quest'anno ci siamo imbattuti in situazioni complicate da spiegare, e con un regolamento, come dicevo prima, che ma complicato anche da giudicare in campo, perché poi noi chiaramente ci occupiamo di comunicazione, ma sui centimetri è complesso per tutti. C'è questo famoso passaggio su, se non sbaglio, è solitamente a proposito del fallo di mano, no? È generalmente calcio di rigore, sì. Poi c'è sicuramente anche un tema di posso tranquillizzare, è stato tolto. Abbiamo tolto solitamente. Meno male. Questa è una bellissima notizia, perché poi, lo dico proprio sinceramente, in questo clima da quarantena, i telecronisti sono immensamente meno degli arbitri chiamati a dover giudicare. Cioè la seconda persona dopo l'arbitro che deve dare una valutazione sull'episodio è il telecronista. E il sogno mio e di tutti i miei colleghi, ve lo posso assicurare, prima di qualsiasi partita, è che non ci siano situazioni particolarmente complesse da dover valutare da questo punto di vista. Perché è vero, questo è chiaro. No, volevo tornare indietro a qualcosa che hai detto prima, Pier, sul fatto di come è scritto il regolamento. A volte diciamo l'utilizzo di parole in inglese ha delle sfumature di significato diverse da come poi vengono tradotte in tutte le altre lingue, e una delle nostre attenzioni è anche quella di utilizzare termini che nelle altre lingue possono essere tradotti in maniera chiara senza lasciare adito a dubbi. A volte alcune parole rimangono, quell'usually che hai usato prima effettivamente in quel contesto poteva generare confusione più che invece fare chiarezza. A proposito di modifiche, il VAR, il benedetto VAR che ha cambiato il calcio di fatto da 3 anni a questa parte, è una cosa di cui ci dimentichiamo spesso, cioè, che siamo solo all'inizio. Sembra che sia sempre esistito. Io la prima volta che discussi di VAR, non si chiamava, l'acronimo non esisteva ancora, ma di un qualche cosa che poteva aiutare gli arbitri a non fare errori, era novembre del 2014. Cioè in 5 anni e pochi mesi siamo passati da un'idea da studiare, da valutare, ad averlo utilizzato nella Coppa del Mondo, nelle più importanti competizioni di club, in tutte le leghe più importanti del mondo. Cinque anni. È un percorso irreversibile? Assolutamente sì. Dovremo cercare di continuare a migliorarlo, ed è quello in cui continuiamo a lavorare, cercando di farlo diventare applicato in maniera più omogenea in tutto il mondo, in maniera tale che non ci siano di differenze, cercando magari, uso una parola che piace al presidente della FIFA Infantino, di farlo diventare più democratico, cioè utilizzabile anche in competizioni o da paesi, federazioni, dove ci sono meno risorse economiche o magari meno risorse umane, per cui una sorta di versione light, più semplice, meno costosa da utilizzare, ovviamente con risultati completamente diversi perché non sarà paragonabile, però almeno poter rivedere qualcosa in una partita dove ci sono sei telecamere, dove la setup del VAR di una Lega maggiore o di una Coppa del Mondo non ha senso, ecco, avere qualcosa di più adatto a quella realtà. Continuiamo a lavorare. Pier? Sì, no, ma infatti io su questo sono perfettamente d'accordo, sono d'accordo sull'idea che il VAR abbia rappresentato una rivoluzione, e sono del partito dei varisti, nel senso che penso che comunque la tecnologia migliora sempre l'occhio umano, però come dico da prima che nascesse, dall'estate famosa, prima dell'introduzione del VAR, e credo che Pier sia completamente d'accordo, aumenta anche il livello di aspettativa da parte degli appassionati, quindi alza l'asticella. Non può ovviamente escludere l'errore umano, che ci può sempre essere, però quando c'è un errore al VAR è molto più difficilmente accettabile e spiegabile rispetto all'arbitraggio pre-VAR. Credo che questo gli arbitri lo sappiano, e sia e poi non so se Pier vuole entrare in questo ambito. No, ti fermo un attimo, scusami Pier. Sì, scusa un attimo, dicevo, non dobbiamo dimenticarci che è una tecnologia al servizio dell'uomo, ma è l'uomo che prende la decisione, per cui ci sono delle situazioni, ci sono degli episodi sul terreno di gioco dove la tecnologia viene utilizzata per valutare, rivedere, ma poi la decisione finale la prende sempre comunque un uomo che per definizione è fallibile. Dopodiché dipende dalle varie culture quanto sia possibile accettare un errore o meno, e di qui il differente utilizzo che c'è stato del VAR recentemente, sperando che appunto in futuro ci sia una maggiore uniformità in questo utilizzo. Non possiamo passare da competizioni dove viene utilizzato molto spesso ad altri dove viene utilizzato due volte in una stagione. È anche per questo che avete scritto e ribadito la necessità che sia l'arbitro poi ad andare a vedersi le immagini, a decidere per le cosiddette decisioni soggettive, quindi non per il fuorigioco, per il pallone dentro fuori, ma per tutte le altre casistiche possibili del protocollo. Cioè non può proprio decidere perché, il VAR davanti al televisore. Proprio perché è una tecnologia al servizio dell'uomo, per cui la centralità dell'arbitro di campo come decisore finale deve essere salvaguardata, deve essere mantenuta, per cui su episodi interpretabili riteniamo sia assolutamente meglio che sia lui ad avere una visione e sulla base di quello che ha visto prendere una decisione. Ma arrivati al terzo anno, siamo in linea con le aspettative a livello di uniformità, a livello globale intendo, poi gli errori ci sono, ne abbiamo parlato qualche istante fa. Ma se vogliamo dare una visione obiettiva, sicuramente è una visione positiva, una valutazione positiva, i pro sono sicuramente molto più che i contra, poi come sempre accade, quando le cose vanno bene, come dicevate prima, si alza l'asticella, per cui si vorrebbe fare sempre meglio, ed è l'obiettivo, quello di migliorare, quello di continuare a lavorare per cercare di fare meglio. In questi anni abbiamo migliorato anche la stessa tecnologia, che oggi è in grado di fornire risposte migliori. Pier è un esperto di televisione, lui sa che differenza c'è fra poter fruire di una tecnologia in termini di camera che mi può offrire un certo numero di frame per secondo rispetto a un altro. È chiaro che tutti vorrebbero le camere con un maggiore numero di frame, ma purtroppo la banda per trasmettere segnale non è infinita, e più è alta la tecnologia e più banda occupi, e questo è un problema. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, ma è la verità. È verissimo, e in alcune situazioni ovviamente estreme, per esempio quando c'è il fuorigioco, la differenza che esiste fra un 24esimo di secondo e l'altro, quindi fra un frame e l'altro, può essere decisiva. Quindi è assolutamente complicato. Io credo però che dal punto di vista del VAR questa sia una delle sfide ovviamente di tutta la comunità arbitrale e anche di noi che facciamo comunicazione nei prossimi anni. Il fatto che i vari paesi adottino questa tecnologia con una serenità che non sempre si vede, credo che questa sia una partita importantissima. E anche da parte degli arbitri, io credo che capisco perfettamente la componente psicologica. Collina è stato il miglior arbitro al mondo, questo è oggettivo, insomma per anni è stato considerato il miglior arbitro al mondo, poi qualche errore l'ha fatto anche lui. E quindi ci potrà raccontare che cosa c'è nella testa di un arbitro. Ecco, il VAR deve essere considerato un alleato dell'arbitro. Il VAR ti può salvare da una brutta figura, ti può salvare da una cosa che fa parte della vita umana, cioè dell'errore. Io faccio continuamente errori, i telecronisti sbagliano i nomi dei giocatori, i conduttori sbagliamo tutti, quindi chiaramente l'arbitro, con tutta la pressione che ha addosso e con la velocità del gioco, è portato a sbagliare. E la sensazione è che in vari momenti di questi anni di VAR ci siano state onde diverse, sensibilità, allora, diverse. Ribadisco, sì. Siamo ancora, che se ne dica, in una fase iniziale. Ma sin dall'inizio abbiamo detto agli arbitri, fra gli arbitri esiste una grandissima solidarietà, amicizia mi verrebbe anche da dire, vera. Abbiamo detto loro, la maniera migliore per dimostrare solidarietà e amicizia non è quella di non dire, sei davanti a un video, che chi è in campo ha fatto un errore. Esattamente l'opposto. È evidenziare quell'errore, dare all'arbitro la possibilità di cambiare. Abbiamo sentito la prima tracce audio, ce ne sono alcuni video, insomma, sono stati caricati nel corso di questi anni, e quindi questo è il rapporto che c'è tra vari assistenti e arbitro. Davide, provincia di Roma. Davide. Buongiorno a tutti. Io volevo approfittare della presenza appunto di Collina per chiedere se era possibile in qualche maniera arrivare finalmente a quello che io credo potrebbe essere una grande soluzione per migliorare uno degli aspetti del calcio più fastidiosi, cioè quelle pantomime che vediamo specie verso la fine della partita di una squadra che sta vincendo e sono le perdite di tempo. Quindi tempo credo effettivo. Che arrivare al tempo effettivo non vedo aspetti negativi. Adesso ti risponde Pierluigi Collina se c'è in qualche modo un percorso che può arrivare al tempo effettivo. Allora, non so quanti anni abbia Davide, ma io con qualche anno in più di lui ricordo i famosi secchi con la spugna dei massaggiatori che entravano negli ultimi minuti della partita, e quelli veramente bloccavano il ritmo della partita. Oggi si sa che se un medico o un massaggiatore entra in campo, comunque un minuto viene recuperato, per cui sicuramente rispetto a prima è molto cambiata la situazione. Tempo effettivo è una cosa che all'interno di questi panel dell'IFAB è stato discusso. Credo che Pier potrebbe anche dare una risposta da un punto di vista televisivo, perché il tempo effettivo cambierebbe e molto anche le logiche di chi trasmette una partita di calcio. Pier? Sì, beh, cambierebbe sì, di molto forse no, nel senso che poi alla fine comunque parliamo di qualche minuto di differenza. Un in un palinsesto anche qualche minuto può fare la differenza. Magari più sulle TV generaliste, quindi penso a Rai e Mediaset, che hanno dinamiche più da ascolto, diciamo, di concorrenza con gli altri canali. Però insomma io comunque, non credo al di là di questo è una cosa. Io credo ci sia un aspetto tradizionale che vada conservato, e la mia idea è che il tempo effettivo non serve che le perdite di tempo vengano considerate. Ma questo c'è, devo dire, secondo me negli ultimi anni delle volte assistiamo anche a dei recuperi infiniti, anche di 6, 7, 8, 9 minuti. Cioè, quindi francamente non mi sembra una grande cosa. Questa è stata una cosa sulla quale abbiamo cercato di lavorare, non come IFAB ma come FIFA, cercando proprio di aumentare il recupero, e credo che ai mondiali del 2018 ci sia stato questo grosso cambiamento, si passava da uno standard di 3 minuti nel secondo tempo a 6, 7, 5, 6, 7 minuti, a prescindere dalla, dall'intervento del VAR o meno, perché se in un tempo vengono segnati 3 gol, mediamente si perdono 3 minuti per la celebrazione, e questo non veniva mai considerato. D'altronde la gente paga il biglietto paga l'abbonamento televisivo per vedere calcio giocato, per cui più fai recupero e più aumenta il divertimento. Come dicevi tu, la soluzione pratica c'è già, se ne tiene conto. Tempo effettivo, sì, potrebbe essere qualcosa, se ne è discusso con allenatori, con giocatori, ma non siamo lontani dai 60 minuti di tempo effettivo già ora, per cui non è che cambierebbe molto. Non cambierebbe molto. Dobbiamo fermarci, purtroppo, dico io, stanno arrivando tante domande. Facciamo che tra qualche mese ci risentiamo con Pierluigi Collina e le raccogliamo, perché le curiosità sono tante e sono curiosità che mi piacciono, nel senso che sono richieste di approfondimenti sul regolamento, per evitare poi di incorrere a malinterpretazioni quando ci si siede davanti al televisore o si va allo stadio da tifosi, nel caso degli amici che ci stanno scrivendo SMS e WhatsApp. Io ringrazio Pierluigi Collina. Grazie. Ciao, a voi. Che credo sia l'unico tifoso di basket contento che la stagione sia fermata qui, essendo un fortitudino. Io veramente sono rimasto scioccato settimane fa a sentire che Pierluigi Pardo tifa per una Virtus che non sia la Virtus Roma. Da un romano come lui, Virtus Roma. Non tifo, francamente. Non tipo, simpatizza con Djordjevic. Simpatizzo per quelle due Virtus lì, quella di Roma e quella di Bologna. Lo so. Lo so, non ho niente contro la Fortitudo. Sono venuto anche una volta a vedere la vecchia Arimo al Palazzo. No, posso lasciare un telegramma così. Dai, però tipo, un telegramma, perché siamo in ritardissimo. Semplificare, secondo me, la regola sul fallo di mano. Lo dico con. Lo so che adesso ci sarebbe a parlare mezz'ora, però ci sentiamo fra qualche settimana. Semplificarla, perché approfondiamo questo. Perché non è semplice. Non è semplice. Allora ci diamo appuntamento quando sarà possibile, opportuno, e quando Pierluigi Collina vorrà tornare con noi. Grazie. Ciao a voi, a presto. Ciao. Mi scuso col collega della borsa, torniamo tra un minuto. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. 800 24 00 24. Mister Gente e Pier Pardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, siamo qui reduci dalla lunga chiacchierata con Pierluigi Collina, carissimo Pier. Adesso ci tuffiamo nell'attualità del calcio sì, calcio no. Vi rileggo le parole di Rezza, Istituto Superiore della Sanità, più o meno un'oretta fa sulla ripresa del calcio. Credo sia una decisione difficile da prendere. Per questo sport non ci sono condizioni di rischio zero e in questo caso, nel caso del calcio, c'è anche un contatto fisico. Il rischio non è zero. Questo Rezza. Saluto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, nome tutelare della Serie C italiana. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi scuso per ieri, ma ero messo male. Immaginiamo siano giornate ricche di appuntamenti. Però bisogna scusarci, perché c'è comunque uno stile e un rapporto che va oltre agli impegni. Presidente, lei come commenta le parole che ha appena sentito e che vengono da uno degli uomini che oggi ha in mano il destino non solo del calcio e dello sport, ma in generale di tutte le attività di questo paese? Ma vede, io credo che la prima cosa da fare è che noi dobbiamo imparare ad ascoltare, e qualche volta ad ascoltare in silenzio. Sono due pratiche che per la vita frenetica che abbiamo svolto e che prima del virus credo che avessimo in gran parte dimenticato, che invece il silenzio della casa, i tempi che abbiamo trascorso tante settimane da questo livello ci ha consentito di, si direbbe in gergo da giovane, resettare. E credo che mi sembra una lezione che bisogna prima di tutto ascoltare e capirlo fino in fondo, perché d'altra parte è quello che si va dicendo nel corso di queste settimane, di questi mesi. se uno mi chiede quando vorresti scendere per rivedere in campo i calciatori, ieri, non domani, ieri, perché comunque vorrebbe dire che il paese sta meglio, che siamo usciti da casa e un minimo, non di gioia perché il paese è molto triste, ma almeno un po' di sollievo potremmo arrecarlo con, magari con un gol oppure con un'azione. Poi però bisogna fermarsi e vederne le condizioni, perché la salute va messa al primo posto, quindi va accolta, come le dicevo, ascoltando e in silenzio. Pier. Allora, mi sembra ovviamente tutto condivisibile, vorrei che il Presidente ci parlasse un po' di come si è arrivati a questa cifra, a questa stima sulla possibile perdita. Sì, e quella che ho citato, dire, 80 milioni di euro per la Serie C. E sentivo nei nostri ascoltatori che ci lasciano i messaggi, qualcuno che diceva ma siamo l'unico paese al mondo dove si pensa di partire, non è vero, anzi mi risulta che la Bundesliga abbia già acquistato i tamponi per le 200 persone che di partita in partita a porte chiuse, per ognuna di quelle partite lì hanno già comprato 200.000 tamponi, ne doneranno 5 volte tanto dopo il traffico andremo proprio in Germania a farci raccontare un po' la situazione. Quello che voglio dire è questo, cioè io penso che i dirigenti abbiano il dovere di provare a ipotizzare scenari. C'è un amico che scrive finché... niente rischio zero, bisogna imparare a convivere anche con il calcio e lo sport a basso rischio, cioè col concetto di basso rischio e non rischio zero. Questo può essere un ragionamento, anche perché poi se il virus, ragazzi, si ripresenta in autunno e anzi addirittura secondo alcuni virologi ci sarà adesso un andamento a scemare con l'estate e all'autunno, magari all'inverno del prossimo anno ci potrà essere ancora un problema, non come quello di quest'anno ma comunque più pesante, che facciamo? Allora conviene quasi giocare adesso e non giocare dopo, quindi lo scenario è complicato, però ecco, volevo partire da quegli 80 milioni a come si è arrivati a questa valutazione, perché giustamente anche questa categoria ha delle risorse economiche importantissime. Presidente. Noi abbiamo fatto questo lavoro scientificamente provato attraverso Price, una delle più grandi aziende e società che lavorano in questo settore. Abbiamo fatto un lavoro conservativo, non siamo andati al mercato lanciando i prezzi in alto, no, abbiamo fatto un lavoro estremamente conservativo e siamo stati, ma lo dico in punta di piedi, l'unica lega che ha proiettato il suo lavoro sul campionato 2021, dove veramente si prospetta una situazione pesantissima. Immaginate da che cosa derivano, semplicemente da... Noi siamo la Lega che vive essenzialmente sui botteghini, l'incasso e gli sponsor. Questa è la nostra maggior fonte. Pensate che noi siamo fermi dal 21 di febbraio, abbiamo fermato la prima partita che è stata a Piacenza San Benedettese il 21 febbraio, nella notte tra il 21 e il 22 abbiamo fermato tutte le partite che si svolgevano in Lombardia e in Veneto, quindi siamo fermi, pensate, eravamo riusciti ad avere nel girone di andata con un lavoro micidiale 40 stadi seggiolini, luci, servizi, ad aumentare i 600.000 spettatori, adesso siamo vuoti. Sì, tutto bruciato. Tutto bruciato. Ma anche per questa particolarità, Presidente, è così sbagliato immaginare che la Serie A sia un mondo a parte anche rispetto al resto del calcio, e cioè ad esempio la Serie A possa avere interesse a ripartire perché poi si regge soprattutto sui diritti televisivi e scendendo di categoria invece si possa arrivare anche laddove possa in realtà, pur facendo parte della stessa famiglia, essere più ragionevole fermarsi? Ma guardate, noi abbiamo da applicare un protocollo sanitario, perché appunto la salute è al primo punto, al primo posto, con quel problema, quello relativo al fatto che fino a quando non ci sarà il vaccino rischio zero non esiste. Il protocollo sanitario va applicato dalla Serie A alla Serie B alla Serie C a tutte le categorie dilettanti, adesso al di là che poi sarà diverso, dovranno sistemarlo perché al momento attuale c'è solo per il calcio professionistico, perché il virus non fa una distinzione, non è come nelle norme di iscrizione che io ho norme diverse dalla Serie B e dalla Serie A o dalla Lega dilettanti. Il virus purtroppo come ci ha dimostrato anche mettendoci tutti a casa. Certo, c'è una casa diversa, è molto democratico, siamo, sì, diciamo, c'è chi ha il giardino, chi ha il balcone e chi il monolocale, poi magari qualcuno alla piscina, fortunati, però voglio dire, ci ha riconsegnato però una dinamica di questo genere, quindi l'impatto è questo. Il problema è diverso, faccio un esempio e lo rapporto alla Serie A, ma con molta partendo dal protocollo. Il protocollo prevede, per noi crea una serie di problemi perché dobbiamo applicarlo, altrimenti non si fa calcio e non si deve fare calcio. A noi abbiamo problemi di strutture mediche, i nostri sono la maggior parte i medici volontari, abbiamo un problema di strutture sportive dove fare il famoso numero chiuso che per 3 settimane si va a determinare attraverso una serie di analisi e di controlli in modo tale che quel gruppo sia al massimo preservato. Dove lo facciamo? Dobbiamo andare in un hotel e i costi? Abbiamo un problema relativo a più Italie, non abbiamo una sola Italia nelle 60 squadre, lo dico con un'immagine, ma c'è un modello diverso di sanità, di ospedali, di laboratori, quindi abbiamo un problema da questo punto di vista estremamente, estremamente forte. Quindi diciamo, tutti questi elementi, che cosa dobbiamo fare se dobbiamo applicare il protocollo? Spostare in avanti per vedere che cosa? Che il virus perda la sua virulenza, che la scienza vada avanti con i farmaci, che la scienza vada avanti, cioè, con che ci le siano analisi, condizioni più favorevoli, che ci siano condizioni di contesto più favorevole, se no altrimenti, diciamo, noi, mi immagino che possa succedere nella Lega Nazionale Dilettanti rispetto a una cosa di sì, questo rispetto genere. Alla Serie A e alla Serie B. Allora, Presidente, le chiedo un minuto, abbiamo il traffico, torniamo e completiamo. Io ho ancora un paio di domande da fare. C'è un amico che chiede quanti calciatori di Serie C si sono ammalati. Se abbiamo una stima numerica, però rispondiamo dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939. Oppure visita il sito azienda.eolo.it. Tutti convocati. Ci state scrivendo in tanti con indicazioni sul modello tedesco. Adesso tra qualche istante andiamo in Germania e ne parliamo. Siamo con Francesco Di Ghirelli, presidente della Lega Pro. Presidente, quanti sono i calciatori che si sono ammalati di Serie C? No, non molti. Il primo, non molti, perché vi ricorderete, noi abbiamo fermato subito, quindi noi abbiamo fermato il 21 di febbraio, quindi abbiamo messo veramente la salute al primo posto. La Pianese è stata la prima, era fermato questo ragazzo a Gozzano dopo una partita che aveva avuto. E poi appunto si è comunque parliamo di numeri poi piccoli, la Reggiana, ma 4-5 sì, non di più. Vicenza, tra le altre cose, la Pianese ci ha consentito di lavorare, diciamo, su un protocollo che poi è stato utilizzato anche dalle altre società e quindi in qualche modo ha consentito di limitare i casi che si sono avuti. Sì, ricordo, sono scattati gli isolamenti e le quarantene e questo ha bloccato la catena. Il 21 febbraio. Certo. Chiudiamo con Marco, provincia di Padova. Marco. Sì, buonasera. Per il presidente Ghirelli, non voglio sapere cosa ne pensa sul futuro della Serie C, ovvero secondo me avere due serie con girone unico, tipo League One e League Two inglesi, sarebbe molto più attrattivo per sponsor e per i tifosi. Io parlo quindi del tifoso di Serie A. Una dieta una dimagrante. C1, una C2, diciamo, sì. C1, tornare alla C1, C2. Presidente. Io credo che noi dobbiamo essere un po' aperti determinando un elemento. Noi non ci troveremo nello scenario nuovo come siamo entrati. Eravamo impegnati con Price a fare il piano, di piano strategico. Lo presenteremo le prime linee il 4 di maggio in assemblea. I punti fondamentali sono determinati da due parole, così avete chiaro che cosa vogliamo: discontinuità e coraggio. Quindi cambiare tutto e cercare di fare meglio. Ancora in maniera più forte. Dobbiamo chiudere la stagione e la cultura dei fallimenti. Quindi riformare, reinventare, ripartire in modo strutturale. Quindi anche dal punto di vista di una riflessione sullo stesso campionato dobbiamo farlo, avendo però in mente una cosa: che noi siamo un grande impianto sociale al limite del non profit, siamo sul territorio in qualche modo l'abbiamo inventata con i pulmini che danno l'immagine, insegniamo calcio ai ragazzi e alle ragazze e nello stesso tempo li togliamo dalla strada, dai pericoli. Questa caratteristica, se la perdiamo, diventa quindi non questa, più povera. Questa deve restare paese. Anche davanti a scelte che magari cambieranno il panorama della Serie C. Grazie, presidente. Grazie a voi. Grazie. A Francesco Ghirelli. Pier, ti faccio sentire Ibrahimovic. Jag har kontrakt med Milan och vi får se hur det avslutas där. Om det avslutas, vi har inget officiellt. Jag måste tillbaka. Ja, med tanke på kontraktet. Ja, jag måste respektera mitt kontrakt. Och... Hai capito, no? Ja. È svedese. Ibrahimovic ha già giocato. Ha detto tiki-taka, ha detto. No, non ha detto tiki-taka. Ibrahimovic ha già giocato con l'Hammarby, triangolare, con altre due squadre minori svedesi. Partita a porte chiuse, ovviamente, ripresa dalla televisione svedese. Ha detto: ho un contratto con il Milan, vedremo come finisce lì, se finisce. Ho detto che voglio giocare a calcio più a lungo possibile, sono una persona che vuole essere in grado di contribuire con qualcosa, vedremo che cosa succede. Saluto Giovanni Armanini, collega di One Up Football che sta in Germania, quindi conosce molto bene la realtà della Bundesliga. Ciao Giovanni. Ciao, buongiorno a tutti. Che succede? Com'è possibile, chiedono in tanti, che la Bundesliga riparta probabilmente il 9 o il 16, comunque a metà maggio, e altrove si sia così indietro? Succede che in Germania c'è stata una reazione al virus che ha portato a non avere una emergenza sanitaria, che è il vero problema di questo virus, e questo pone la situazione organizzativa in una situazione meno caotica che altrove e quindi permette di programmare. Poi aggiungiamoci che, ve lo dico perché vivendoci, i tedeschi nascono per organizzare, sono molto più bravi a organizzare che a ottenere risultati, però spesso con la semplice organizzazione si ottengono dei grandi risultati. Ma i calciatori tedeschi in queste settimane hanno fatto i tamponi perché si allenano da quasi un mese. I calciatori tedeschi sono stati controllati non più e non meno che le altre persone, perché nel momento in cui tu non hai sintomi e non hai situazioni che facciano pensare a questo, non è che il virus si crea perché fai un contrasto, il virus si crea perché l'hai preso da qualcuno che ce l'ha, e quindi l'allenamento in sé, se tutti sono sani, non crea contagio, perché a volte sento delle discussioni e pare che il contatto crei contagio. No, la trasmissione del virus crea contagio. Il contatto con qualcuno che ha il coronavirus. Il contatto con qualcuno che ha il virus. È difficile immaginare per un arco di tempo comunque lungo come quello della finale del campionato, sono più giornate in Italia, meno in Germania, ma insomma è comunque lungo, di tenere i giocatori sotto una campana di vetro, perché poi c'è anche il mondo esterno, ci saranno anche i momenti in cui però io sono d'accordissimo che qui è il modello organizzativo delle squadre. Ieri sera, non so se avete visto Formigli, il programma sulla 7, c'erano queste due immagini, il famoso che la famosa foto di Rimini con quella persona che prendeva il sole con due poliziotti con i quad che l'hanno visto col drone, e poi l'immagine del fiume Isar a Monaco di Baviera nei giorni scorsi con la gente che stava tranquilla. E io ho pensato che è il contrario di quello che gli stereotipi direbbero, no? Cioè, che penseresti che l'immagine dove stanno tutti lì a prendere il sole sia l'Italia e i due poliziotti sia la Germania. Invece è l'esatto contrario, ma è anche la dimostrazione del fatto che poi, al di là dei tecnicismi e dell'applicazione, conta l'organizzazione, conta la prevenzione. Per cui in Germania quell'immagine apparentemente di normalità e quasi di anarchia era in realtà estremamente organizzata, certo. Ma Giovanni, è vero che in caso di positività di un calciatore i tedeschi nella loro organizzazione hanno deciso che non si ferma nulla, a parte quel calciatore, proprio, ovviamente. Stavo dicendo proprio questo, ma il problema è molto semplice, è questo che fa la differenza. L'hanno dichiarato. Se c'è una positività si va avanti. Semplicemente perché loro pensano di avere, e credo ci sia perché la testimonianza è quella, il metodo per controllare, isolare e curare, ancora non conosciamo la cura, però loro pensano di avere trovato organizzativamente parlando il metodo migliore per contenere, ma del resto dire questo è la stessa identica cosa che si può dire in qualsiasi settore industriale, perché io credo che non è che non avremo più contagi, ne avremo ancora di contagi e ne avremo di gente che lavorerà in tutti i settori produttivi del mondo. Sì, non soltanto nel calcio. Però per gli altri settori non si è mai posto questo tipo di problema, purtroppo, perché ancora secondo me si confonde che cos'è veramente il calcio professionistico. Certo, abbiamo meno di un minuto e io ho veramente una domanda flash per Giovanni Armanini, con risposta flash. C'è stato dibattito a livello di opinione pubblica sull'idea che il calcio ripartisse o meno? Ma allora, non c'è stato il dibattito così come lo conosciamo in Italia, perché la Germania è un paese dove esiste un livello istituzionale e quando si devono prendere delle decisioni collettive parla chi è deputato a farlo. Quindi il dibattito sì c'è stato, ovvio, però non c'è stato nelle misure in cui, perché non ci sono state fughe in avanti di presidenti, di dirigenti, eccetera. Di grazie politici, Giovanni. Che non avevano in quel momento il titolo per parlare. La risposta. Grazie Giovanni. L'efficienza grazie Giovanni Armanini. Sì. L'efficienza spiegata in 15 secondi. Esattamente questo. Perché il dibattito è normale che ci sia all'interno di un'istituzione. Tu non puoi pensare che 20 presidenti pensino tutti la stessa cosa. Quella sarebbe grave se il fosse problema così. È arrivare a però fare è sintesi. Grazie Pier, a lunedì. Ciao. A lunedì anche con te. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Miriam Lucchetti in assistenza, Roberta Frisani in diretta, in regia, Gianmarco Ferronato per i montaggi. Tutti convocati torna lunedì alle 14. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.